gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Don Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Yeah, yeah. Yeah. Benvenuti a I Love Italy, il rotocalco mensile in lingua italiana. Un saluto da parte di Andy Mangiarotti, che vi sta parlando dagli studi dell'Oltrepò Pavese qua in Italia. Siamo in onda su RMI, Radio Miami Internazionale, storica radio broadcaster americano che trasmette sulle onde corte. Questa trasmissione dura 15 minuti e si chiama per l'appunto I Love Italy. Nel nostro salotto radiofonico parliamo di cinema, teatro, musica, costume e società, sia notizie attuali che del passato. Il tutto in onda, come vi ho detto in precedenza, su WRMI, una storica radio sulle onde corte con i suoi potenti trasmettitori da Okeechobee in Florida. All'interno di questa trasmissione, se volete, potete essere anche voi grandi protagonisti e amati ospiti, se avete piacere. Potete interagire con Andrea scrivendo una mail al nostro indirizzo classico, che vi vado subito a leggere: andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org. Se volete magari inviarci dei rapporti di ricezione per ricevere la vostra cartolina QSL cartacea, oppure potete anche scriverci per esprimere pareri su questa trasmissione. Abbiamo già degli amici da salutare, lo facciamo subito appena dopo questo nostro jingle. 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目， 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部， 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声， 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。 Oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto in questi mesi. Partiamo subito con il nostro primo amico Ding Lun dalla Cina. Cara Radio Miami International, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma italiano alle ore 01:15. 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea e se eventualmente ci sono dei souvenir con il logo di Radio Miami. Orario di ricevimento, quindi il 12 febbraio alle ore 1:15 UTC sino alle 1:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il nostro amico cinese ci ha ascoltato con una radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione Jiangxing, provincia dello Jiangsu, Cina, ricezione ordinaria per un Simpo 43444. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che anche di ricevere la vostra cartolina QSL. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, noto come la festa delle lanterne, ovvero la prima luna piena del nuovo anno, di qui il nome festa delle lanterne. In questo bellissimo giorno vi auguro tutto il meglio della vostra vita. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lung e così via. Anche a te, gentile Ding Lung, auguriamo il meglio per la tua vita e rimani sempre sintonizzato su Double RMI. 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. E poi abbiamo il secondo messaggio, questa volta si tratta proprio di un messaggio ricevuto tramite il nostro account Telegram. Ciao Andrea, sono Guido Panebianco da Catania, ti ho seguito da un trasmettitore virtuale online dal Massachusetts. C'era un ottimo segnale, invece qui a Catania, dove abito, in Italia, non si prende molto bene Double RMI alla sera o alla notte sui 15.770, quindi ho avuto un po' di problemi a ricevere il tuo programma. Buona serata e buon sabato sera. Noi ringraziamo anche il nostro amico, appunto, Guido Panebianco da Catania. Ovviamente la propagazione è così sulle onde corte. Double RMI solitamente in Italia si ascolta molto bene nella tarda notte o anche nella prima mattina, almeno così è nei nostri studi, ma questa è, come si suol dire, la propagazione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Cari amici di Radio Miami International, oggi parliamo di un anniversario davvero speciale. Il 27 marzo del 1975 usciva nelle sale italiane la pellicola Fantozzi, diretto da Luciano Salce e interpretato da un indimenticabile Paolo Villaggio, che per la prima volta porta sul grande schermo il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi, tratto dalla sua immaginazione di quando era un impiegato a Londra, crea questo Fantozzi, prima sulla carta stampata e poi viene proprio messo su pellicola. Quest'anno, nel 2025, da poche settimane, abbiamo appunto celebrato il 50° anniversario di quella storica uscita, la prima programmazione di Fantozzi, era per l'appunto il 27 marzo del 1975. Per questa data storica, proprio in queste settimane, è ritornato al cinema Fantozzi, restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna. Solitamente la Cineteca di Bologna è solita restaurare capolavori del cinema italiano e internazionale. Quindi ci siamo goduti Fantozzi al cinema, è stata un'occasione veramente irripetibile per vedere sul grande schermo proprio le disavventure di questo ragioniere un pochino particolare. Il primo film di Fantozzi è praticamente una raccolta di episodi tragicomici che raccontano con ironia feroce e umanissima le umiliazioni quotidiane del protagonista. Un'opera che unisce satira sociale e poesia con una comicità surreale, ma sempre radicata nella realtà. E se me lo permettete, anche molta, molta tristezza, perché Fantozzi è sicuramente un personaggio divertente, ma anche molto triste. Nel 1976 arriva proprio il secondo tragico Fantozzi, sempre diretto da Salce, che consolida il mito del personaggio con episodi divertenti, immortali, come non ricordarsi della corazzata Potionkin. E Villaggio poi abbinava questo sketch a una cagata pazzesca che, se può dire, è diventata un must per quanto concerne i dialoghi tra magari italiani quando si vuole scherzare. Il cast è una galleria di maschere perfette, Paolo Villaggio ovviamente nei panni del protagonista, accanto a lui troviamo Anna Mazzamauro nel ruolo della signorina Silvani, l'irraggiungibile collega e sogno proibito di Fantozzi, poi abbiamo anche il miglior amico di Fantozzi, il ragioniere Filini, interpretato in modo egregio da Gigi Reder, con il suo entusiasmo surreale e le sue organizzazioni particolari di eventi veramente disastrosi. Nei primi due film il ruolo della moglie di Fantozzi, la signora Pina, è stata, diciamo così, interpretata da Liu Bosisio, che dà al personaggio quel tono sincero e umano. Dalla terza pellicola in poi il ruolo passa invece alla brava attrice teatrale Milena Vukotic, che ne reinventa il carattere con garbo e misura, diventando a sua volta un volto amatissimo della saga. Tra i personaggi più significativi di Fantozzi c'è anche il geometra Calboni, interpretato dal grande Giuseppe Anatrelli, che ha dato al personaggio un carisma irresistibile, fatto di arroganza, falsità e seduzione goffa. Dopo la sua prematura scomparsa, il personaggio fu interpretato da Riccardo Garrone, ma pur essendo un ottimo attore, Garrone non riuscì a sostituire lo stesso impatto comico e carismatico che Anatrelli aveva dato proprio al personaggio di Calboni. Il successo dei primi due film fu tale da dare vita a un vero e proprio sequel composto da 10 pellicole. Noi ricordiamo appunto tutte le pellicole: Fantozzi del 75 di Luciano Salci, il secondo tragico Fantozzi del 76 sempre di Salci, poi c'è Fantozzi contro tutti, c'è una coregia di Neri Parenti, Salce e anche Paolo Villaggio. Poi iniziano i Fantozzi di Neri Parenti, Fantozzi subisce ancora dell'83, Super Fantozzi dell'86, che, diciamo così, prende una trama un po' diversa, fa viaggiare questo personaggio nel mondo, negli anni, scusate, dalla creazione fino al futuro. Poi c'è Fantozzi va in pensione, sempre di Neri Parenti, molto bella anche questa pellicola, che mette in risalto la storia appunto di Fantozzi da pensionato, tutte le varie vicissitudini che Villaggio dovrà subire da pensionato. Poi c'è Fantozzi e la riscossa nel 90, Fantozzi in paradiso nel 1993, Fantozzi e ritorno nel 96 e Fantozzi l'ultimo, la clonazione del 1999 di Domenico Saverni, scusate, è il regista che prende il posto di Neri Parenti. Il personaggio di Fantozzi è rimasto un punto fermo dell'immaginario collettivo italiano, le sue battute, i suoi tic, le sue disavventure continuano a far ridere e riflettere intere generazioni. Il primo Fantozzi resta oggi una pietra miliare del nostro cinema comico, un film che a 50 anni dalla sua nascita conserva tutta la sua forza, anche grazie a questo bel restauro fatto dalla Cineteca di Bologna che abbiamo visto quest'anno. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate a rivedere Fantozzi in sala, se viene ancora proposto, magari quest'estate, sicuramente nel cinema all'aperto, per ridere, pensare, commuoversi. È tutto lì. In questo omino con la giacca troppo grande, la pelata lucida e l'eterna sfortuna, perché alla fine dentro ognuno di noi c'è un po' di Fantozzi. Grazie per averci ascoltato, io ringrazio Jeff White e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre su Radio Miami International. Un saluto da Andrea. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti, sì, tra Radio Miami. I love Italy. Yeah.